Ir intelligenten, sghignazzava ogni giorno vedendoci accalcare con le gamelle tese alla distribuzione del rancio. Il capo era palesemente intimidito dal registro di comando e dal rapportino quotidiano delle prestazioni, e questa era stata la via che Piccolo aveva scelta per renderglisi necessario. E già avevamo potuto constatare che una sua parola, detta al momento giusto, era avanza a salvare qualcuno di noi dalla frusta o dalla denunzia alle SS. Appeso con una mano alla scala oscillante, mi indicò: «Aujourd'hui, c'est primo qui viendra avec moi chercher la soupe». Con Piccolo eravamo diventati amici. Era stato lui ad appoggiare la mia candidatura come aiuto nel Essen Hall e nella corvée quotidiana del rancio. Si arrampicò fuori e io lo seguì, sbattendo le ciglia nello splendore del giorno. Facevo tiepido fuori, il sole sollevava dalla terra grassa un leggero odore di vernice e di catrame che mi ricordava una qualche spiaggia estiva della mia infanzia. Piccolò mi diede una delle sue due stanghe e ci incamminammo sotto un chiaro cielo di giugno. «Tu es fou de marcher si vite. On a le temps, tu sais». Il rancio si ritirava a un chilometro di distanza. Bisognava poi ritornare con la marmitta di 50 chili infilata nelle stanghe. Rallentammo il passo. Piccolo era esperto, aveva scelto accortamente la via in modo che avremmo fatto un lungo giro camminando almeno un'ora senza destare sospetti. Parlavamo delle nostre case, di Strasburgo e di Torino, delle nostre letture, dei nostri studi, delle nostre madri, di come si somigliano tutte le madri. Passò una SS in bicicletta e Rudi, il Blockführer, «Alt, sulla tenti, togliersi il berretto!» «Salbre, celui-là! Ein ganz gemeiner Hund!» dice Jean. Per lui è indifferente parlare francese o tedesco e può pensare in entrambe le lingue. È stato in Liguria un mese, gli piace l'Italia, vorrebbe imparare l'italiano. Io sarei contento di insegnargli l'italiano. Non possiamo farlo? Possiamo, anche subito, una cosa vale l'altra. L'importante è di non perdere tempo, di non sprecare quest'ora. Passa Limentani, il romano, strascicando i piedi con una gamella nascosta sotto la giacca. Piccolò sta attento, coglie qualche parola del nostro dialogo e la ripete ridendo: «Zuppa, campo, acqua». Passa Frankel, la spia. Accelerare il passo non si sa mai, quello fa il male per il male. Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente il canto di Ulisse, ma non abbiamo tempo di scegliere. Se Jean è intelligente capirà chi è Dante, che cosa è la commedia, quale sensazione curiosa di novità si prova se si cerca di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Com'è distribuito l'inferno, cosa è il contrappasso, Virgilio e la ragione, Beatrice e la teologia. Jean è attentissimo e io comincio, lento e accurato, lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: «Quanto...» qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso. Povero Dante, povero francese. Ma Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua e mi suggerisce il termine appropriato per rendere antica. E dopo, quando? Il nulla. Un buco nella memoria. Prima che sia Enea la nominasse, altro buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile, la pietà del vecchio padre, né il debito amore,

odo risuonare una voce ben nota, una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell'alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa. Alzarsi. Stavacci. Stavacci. Stavacci. Stavacci. La compagnia Diritto e Rovescio ne il reading concerto Il canto di Ulisse, omaggio a Primo Levi, con Roberto Erlizca e Stefano Santospago, musica dal vivo di Alessandro Di Carlo e Alberto Caponi, cura registica di Teresa Pedroni. Ben trovata. Grazie, buonasera. Ti parli di questo progetto? È nato appunto come omaggio per il centenario di Primo Levi e ha debuttato nel 2019 al Festival di Todi. Poi con tutto il problema del Covid, delle chiusure dei teatri, l'avremmo dovuto riprendere in quella situazione lì, in seguito in altri teatri, invece insomma ci sono stati slittamenti eccetera. Diciamo che ci siamo occupati di scegliere dei testi che non fossero tanto frequentati, per cui abbiamo attinto da questa raccolta che si chiama L'ultimo Natale di guerra di Primo Levi, dove ci sono appunto dei racconti, alcuni dispersi, alcuni che non erano stati mai pubblicati eccetera, e poi abbiamo preso Il canto di Ulisse, che è il titolo invece da Se questo è un uomo. Lo spettacolo è con Roberto Erlisca e Stefano Santospago e con la musica dal vivo di Alessandro Di Carlo e Alberto Caponi. Il tipo di indirizzo su cui abbiamo spinto è sulla figura di Primo Levi come resistente, cioè non come vittima ma come uomo che si è appunto cimentato con tutte le avversità, con un'enorme vitalità, con una grande forza e con una grande resilienza, e questo ci è sembrato anche molto indicato per questo momento storico, cioè il fatto di resistere, di mobilitare delle risorse interne che in genere sono silenziose e davanti a degli eventi tragici. E poi anche mettendo in evidenza il lato di Primo Levi come scrittore, non solo come testimone. E in questi racconti abbiamo scelto quelli più positivi, tra virgolette, cioè quelli che quell'orrore, per esempio nell'ultimo Natale di guerra, che è il titolo della raccolta, ma poi c'è un racconto che si chiama così, Primo Levi racconta questo avvenimento che per loro è una situazione miracolosa, dell'arrivo di questo pacco dono nel lager, no? E quindi la gioia, le emozioni che questo sprigiona in loro. E poi c'è anche un aspetto abbastanza tra le righe, divertente, un po' da commedia all'italiana, che questo pacco dono diventa un problema enorme perché naturalmente gli altri se ne accorgono e loro non possono dividerlo con tutti, lui e il suo amico Alberto. Allora quindi ci devono dividere i biscotti, cercare di occultare tutto nelle tasche, questo e quell'altro, e poi a un certo punto, quando lui va nel bagno a farsi la doccia, appende la giacca al muro dove dentro ci sono dei biscotti, della cioccolata, eccetera. A un certo punto si volta e vede che questa giacca lentamente si sta innalzando con un filo si erano attaccati dall'esterno e quindi riescono a portargliela via, no? E quindi c'è questo aspetto deluso, poveretto, che poi racconta l'amico, e l'amico molto saggio dice: vabbè, però diciamo che possiamo essere contenti perché qualcun altro sta approfittando e sta festeggiando il Natale anche lui, no? Che poi quello dovrebbe essere l'ultimo Natale di guerra. Quindi c'è questo lato di Primo Levi in qualche maniera anche ottimistico, tra virgolette, no? Che cerca di mettere l'accento sui momenti, come nel canto di Ulisse, che aiutano a resistere, che danno la forza per resistere. Ecco, questo è stato un po' il filo conduttore su cui ci siamo avventurati. Si tratta di un reading con musica, di musicisti. Eseguiranno dei frammenti di musica klezmer, che mi è sembrata quella più adatta per evocare appunto lo spirito di questo popolo sempre in movimento, sempre in fuga, sempre in qualche maniera perseguitato, no? Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Su Facebook, Compagnia Diritto e Rovescio. E poi vabbè, siamo anche su Instagram. A presto! Grazie, grazie molto. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Elio Germano, che ha curato adattamento e regia dello spettacolo in realtà virtuale Così è o mi pare, tratto da Così è se vi pare di Luigi Pirandello a Roma, a Largo Studio, a partire dal 24 febbraio 2022. Ben trovato, Elio. Eccoci, grazie dello spazio. Fino a quando sarà in scena virtuale? Dunque, è esattamente scena virtuale, magari spiegherò meglio che cos'è questa corbelleria. Intanto una settimana, per okay. Cui abbiamo a disposizione questa settimana. Speriamo poi di dover replicare per allungare il periodo, perché qualcuno magari non è riuscito a vederlo. Se lo allunghiamo è perché c'è stata troppa richiesta, quindi spero che questo avvenga. Per ora è una settimana, allargò. Come è nato questo progetto? Io già giro con un altro spettacolo in realtà virtuale che è andato molto bene e continuo a girare, che si chiama Segnale d'allarme, una versione per realtà virtuale di un mio spettacolo che si chiamava La mia battaglia. E con questa nuova cosa che abbiamo fatto, per cui si è creato un circuito, sostanzialmente una distribuzione per la realtà virtuale, grazie a questa operazione con Segnale d'allarme, abbiamo ottenuto degli interessi, quindi dei finanziamenti per fare un altro spettacolo, proprio fatto, pensato per il circuito più proprio teatrale, e quindi ho pensato a un autore come Pirandello, insomma, a poter utilizzare la realtà virtuale proprio per far vivere qualcosa insito all'interno proprio del, non solo di tutto proprio il pensiero pirandelliano, ma proprio del testo stesso, quindi mi sembrava la cosa adatta. Cosa avevi apprezzato del testo di Pirandello? La cosa sconvolgente è che secondo me è un periodo in cui è fortemente attuale, proprio tutta la produzione di Pirandello, per le domande tra il rapporto tra chi siamo, chi pensiamo di essere e qual è il personaggio invece che costruiamo nel nostro essere pubblico, cioè nel senso il nostro personaggio pubblico, il nostro personaggio che proiettiamo sugli altri, il nostro avatar, anche digitale ormai, ma non solo, proprio quello che nella vita cerchiamo di spingere e ci sentiamo di essere, salvo poi improvvisamente guardarci allo specchio e scoprire che siamo altro, squarciare queste scenografie di tanto in tanto che ci illudono di vivere in un mondo che poi scopriamo che non ci appartiene. Quindi ecco, grazie alla realtà virtuale si può fare questa esperienza, che con questa un po' invenzione anche del testo si fa su questo testo di Pirandello, cioè che si vive nel corpo di un'altra persona, quindi noi siamo non solo all'interno del film ma siamo addirittura dentro il corpo di un personaggio e quindi ci sembra di essere noi, salvo che poi quando ci guardiamo allo specchio o comunque già all'inizio da come le persone ci trattano sentiamo essere un personaggio, ecco, quindi questo scollamento, questa così insomma sensazione di crisi tra l'essere persona, tra l'essere io e l'essere invece la proiezione che gli altri vedono di me, non solo è un tema molto caro a Pirandello ma mi sembra un tema fortemente attuale e distorto proprio dalle tecnologie come quella che andiamo a utilizzare della realtà virtuale, cioè a cui le tecnologie hanno contribuito fortemente a distorcere, a acuire. Quindi per spiegare un po' cosa succede, non so neanche se sto rubando spazio a qualcun altro perché non è proprio teatro, ecco, questo è bene chiarirlo, però non è neanche cinema, quindi neanche all'altra trasmissione sarei andato bene. Il fatto è che la nostra invenzione è quella di ipotizzare una terza via rispetto al cinema e al teatro, ma semplicemente utilizzare una nuova tecnologia in funzione artistica che ha un proprio linguaggio e quindi senza che debba assomigliare all'una o all'altra cosa, lanciarla in una sua strada autonoma. La nostra invenzione è stata quella di creare visioni che possano essere appunto viste sostanzialmente al pubblico in maniera contemporanea. Cioè, questa è una tecnologia che nasce per essere consumata negli appartamenti, nelle proprie individualità, con le console dei videogiochi oppure sui cellulari, eccetera, eccetera. E in qualche modo alienando le persone ancora di più nei loro mondi scollati dal sociale. Noi semplicemente abbiamo creato un piccolo software che mette tutte le visioni in contemporanea e per cui ecco la sala, ecco, per cui ricreiamo una sala in questo modo reale, no? Perché la gente va nella sala, in questo caso all'Argo, trova sulla sedia non me gli attori ma un visore con delle cuffie opportunamente distanziato dagli altri per fare in modo che quando si gira poi uno non si scontra col vicino, e a un determinato momento insomma partiranno le visioni come se fosse una visione di cinema, ecco, con un orario, a quell'orario parte la proiezione, soltanto che la proiezione è sferica. Quindi siamo all'interno di un film sferico, ecco che siamo in una zona, diciamo, a confine tra il cinema e il teatro, perché è film, ma le cose avvengono tutte attorno a noi, come quando siamo in una sala. E però, ecco, nel film non siamo in una sala, come invece era Segnale d'allarme, il vecchio film in realtà virtuale che sta ancora girando. In questo caso siamo proprio nel salotto dei Laudisi, cioè dove è ambientato Così è, se vi pare. Addirittura siamo uno dei personaggi, un personaggio che è stato scritto apposta, che è il vecchio commendatore Laudisi, che è appunto seduto su una sedia a rotelle. Quindi noi, quando poi entriamo nel film, ci accorgiamo che siamo seduti su una sedia a rotelle, che abbiamo il corpo di un anziano uomo, ecco, quindi ci sarà anche quest'altro tipo di shock di genere, non solo di età, per persone che appunto non sono in quella descrizione. E dopodiché appunto avremo la possibilità di vedere da questo punto di vista privilegiato tutta la questione del Così è, se vi pare, appunto rinominata Così è o Mi pare, proprio per marcare questa visione da un punto di vista così personale, interno e individuale. Lo spettacolo in realtà virtuale Così è o Mi pare, tratto da Così è se vi pare di Luigi Pirandello. Un saluto e un ringraziamento ad Elio Germano, che ne cura adattamento e regia, a Roma, all'Argo Studio, dal 24 febbraio 2022. Grazie mille. A presto, ciao Elio. Ciao, ciao Fede, ciao, grazie. Il regista Carlo Emilio Lerici sullo spettacolo Il diario di Anne Frank, a Roma, Teatro Belli, dal 22 al 27 febbraio 2022. Ben trovato. Ecco, ben trovato anche a te e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, si riparte. Si riparte. Uno spettacolo che avevate riportato in Italia dopo tanti anni, nel 2020, poi nel 2021 e ora. Sì, il 2020 riportato in scena con un grande successo, era un progetto pensato e voluto da Antonio Salines, che era il fondatore del Teatro Belli, direttore della compagnia, che ci ha lasciato l'estate scorsa, e lui ci teneva molto a questo spettacolo, dove ne era protagonista nel ruolo di Otto Frank. E quindi in qualche modo riportato in scena quest'anno vuole essere per noi un omaggio anche a lui, alla sua determinazione, alla sua idea, che comunque Il diario di Anne Frank è diventato uno spettacolo con un suo significato, una sua urgenza in un'epoca così strana come quella che stiamo vivendo. E quindi troviamo in scena adesso. Da una drammaturgia che fu anche premio Pulitzer nel 1956. Sì, il testo ha vinto un premio importante perché è scritto in una maniera impeccabile. Come regista ho fatto poca fatica a metterlo in scena perché è tutto scritto, è tutto indicato, è un meccanismo perfetto e quindi si tratta solo di riuscire a trovare gli attori giusti. Ecco, io di questo sono contentissimo perché ho trovato una compagnia straordinaria con degli attori, Raffaele Alterio che interpreta Anne Frank, è straordinaria, Ruben Ricillo che interpreta il ruolo di Otto Frank, Francesca Bianco, Beatrice Coppolino, Vinicio Argiroto, Nino Tosto, Susi Sergiacomo, Fabrizio Bordignone e Roberto Baldassari. Una compagnia di 10 attori, una cosa impensabile per lo sforzo per mettere in scena un progetto del genere, ma devo dire che siamo tutti a testa bassa contenti di andare in scena. Un lungo piano sequenza, 4 spazi, come si svolge il racconto per chi ci ascolta? Inizia con Otto Frank che rientra nella soffitta dove hanno vissuto per 2 anni nascosti. Lo spazio scenico è diviso su 2 piani e in 4 spazi che sono visibili contemporaneamente, quindi quando succede qualcosa sotto si può vedere anche cosa succede sopra. E riguardandosi attorno e ritrova il diario, inizia a leggere queste pagine del diario e da lì entra Anne Frank e ci troviamo trascinati al 42, il giorno in cui entrano dentro al rifugio, e dopodiché si arriva fino all'ultimo tragico giorno in cui vengono scoperti e poi deportati. La bellezza del testo è quella appunto di mostrare gli attori sempre in scena, non escono mai, perché la scena è lo spazio dove hanno vissuto. In realtà le dimensioni del palcoscenico del Teatro Belli, con questa scenografia su 2 piani, sono di circa 40 metri quadri, 42 metri quadri, che pressappoco era la dimensione dello spazio dove hanno vissuto realmente la famiglia Frank, i Van Dan e il dentista Dussel. Quindi si vede in scena esattamente quello che poteva essere uno spazio, le dimensioni reali dove hanno vissuto veramente. Questo credo che sia abbastanza inquietante. Per tutte le informazioni, i riferimenti web sono il sito internet e la pagina Facebook del Teatro Belli. Sì, nel sito internet www.teatrobelli.it, la pagina Facebook Teatro Belli. A presto! A presto, grazie. Il regista Carlo Emilio Lerici sullo spettacolo Il diario di Anne Frank, a Roma, Teatro Belli, dal 22 al 27 febbraio 2022. Valentina Esposito, autrice e regista della compagnia Forte Apache Cinema Teatro, sullo spettacolo Destinazione non umana, a Roma, Teatro India, dal 22 al 27 febbraio 2022. Ben trovata. Ciao Federico, buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo un po' dello spettacolo. La compagnia Forte Apache Cinema Teatro è costituita da attori ex detenuti, ormai professionisti, si sono inseriti nel circuito professionale. Destinazione non umana è un testo molto molto duro che in qualche modo affronta un tema antico, il tema della predestinazione. Noi abbiamo abbracciato una metafora, un'analogia che poi ci ha in qualche modo guidati nella composizione drammaturgica, e gli attori, i personaggi sulla scena sono dei cavalli da corsa che, come tutte le bestie, in qualche modo hanno un destino, se vogliamo, scritto quasi prima di nascere, no? Quindi in particolare in questo caso i cavalli a destinazione non umana sono i cavalli da corsa, quelli che non sono destinati al consumo alimentare. Dunque, attraverso, diciamo, questo piccolo gioco, che è un gioco visionario, noi invitiamo il pubblico a giocare insieme a noi, è una favola, Destinazione non umana, in qualche modo cerchiamo di raccontare la tragicità dell'esistenza umana, no? Lo sforzo di vivere contro e nonostante la certezza della morte che incombe su queste bestie a ogni curva, a ogni passo. In ogni momento potrebbero cadere e dunque essere abbattuti ed essere comunque destinati alla macellazione per via illegale e clandestina. Dunque, in qualche modo, questa metafora così forte, che ci riporta anche a un immaginario mitologico antico, ci ha permesso da una parte di affrontare questo tema così importante, anche la relazione con le proprie responsabilità, con la responsabilità individuale rispetto ad alcune scelte maturate nella propria esistenza, e dall'altra parte anche di attraversare, come sempre noi facciamo, la biografia degli interpreti coinvolti, no? Perché è chiaro che in queste esistenze anche così torturate, di cavalli da corsa che, come è nella realtà, sono chiusi al gabbio 22-23 ore al giorno per uscire in esterno, per vivere un'ora soltanto di allenamento, drogati, dopati, cioè c'erano diverse risonanze anche con alcuni tratti, passaggi degli interpreti coinvolti, quindi è stato un modo proprio per conciliare in qualche modo 2 anime, una più letteraria, anche mitologica, e invece qualcosa di molto autentico legato appunto agli interpreti.

e sono così tutti diversi, no? I ragazzi con lo spettro autistico sono tutti diversi dall'altro, anche se hanno degli elementi in comune, sono tutte persone diverse. E poi un'altra cosa, e poi mi piacerebbe mettere a disposizione il palcoscenico la sera dopo ogni spettacolo, facendo salire sul palco delle associazioni che si occupano appunto di autismo, di disabilità, e dare la parola a loro magari e parlare dei loro progetti. Questa è una cosa che mi piacerebbe fare, ospitare, quindi insomma, anche se ci sono associazioni che ascoltano in questo momento e vogliono mettersi in contatto con me e avere a disposizione il foyer per un'ulteriore raccolta fondi, o salire sul palco alla fine dello spettacolo per parlare dei loro progetti, li aspetto, insomma, mi piacerebbe. Il teatro lo fa normalmente, poi farlo in uno spettacolo che si parla di questo mi sembra proprio il massimo, quindi mi sembra bello poterlo fare, insomma. Ah, poi c'è un altro particolare, se posso dirlo, visto che siamo a Radio Onda Rossa, no? C'è di San Lorenzo, no? Io, siccome sono sanlorenzina, abbiamo già scritto uno spettacolo su San Lorenzo che voi avete spesso mandato, Pane, Latte e Lacrime. Sì, sì, sì, anche questa storia è una famiglia che vive a San Lorenzo, così me la sono immaginata là. Perché insomma volevo trattare un'umanità, una famiglia con difetti, con le loro grandezze e miserie, una famiglia di gente semplice. Beh, questa è una suggestione in più per dire che il quartiere ritorna, insomma. Grazie a voi, grazie per l'opportunità, grazie. L'autrice Veronica Liberale sullo spettacolo Gregory, una storia di famiglia, a Roma, Teatro De Servi, dal 17 febbraio al 6 marzo 2022. Con Daniela Broggi per presentare il suo libro Lo spazio delle donne, in libreria dal 15 febbraio 2022. Ben trovata! Grazie, ben trovati a voi. Conta. Ben trovate naturalmente, visto che arrivo come autrice dello spazio delle donne. Cosa racconti in questo lavoro? Metto in campo l'esigenza di fare spazio alle donne da vari punti di vista, cioè fare spazio a quel grosso elefante nella stanza con il quale continuiamo a convivere spesso in maniera cieca e che corrisponde all'indisponibilità a discutere di disuguaglianza o di sproporzioni di genere che riguardano appunto le donne, il modo in cui la storia delle donne, la maniera in cui sono appartenute al mondo è stata spesso oscurata, inabissata, con conseguenze che evidentemente riguardano tutti. E mi sono chiesta come potevo fare a affrontare e guardare negli occhi questo elefante, creando narrazioni e discorsi condivisi. E così ho provato a scrivere un libro che riuscisse a parlare a tutte e a tutti, a pubblici molto differenti e trasversali, proprio perché credo che la cosa più importante da fare sia costruire delle narrazioni condivise. E così ho messo su un libro che vi potete leggere in un paio d'ore e portare dappertutto, costa anche poco, è leggero, questo era importante, insomma, per me, riuscire a provare a parlare a un pubblico non specialistico. Come l'hai strutturato? In 5 passaggi che usano e riprendono via via l'idea dello spazio, sia come spazio storico ma anche come progetto ideale possibile e anche come categoria critica o forma di sguardo attraverso la quale noi possiamo interrogarci sulla presenza o sull'assenza o sulla rimozione delle donne dalla storia, dalla cultura, dai tavoli di dibattito, dalla politica e tutto quello a cui ci piace pensare. E così sono partita da un primo capitolo in cui mi occupo proprio dello spazio storico delle donne, perché credo che sia importante prima di tutto questa mossa, cioè restituire le donne alla storia. Si può veramente pensare e progettare uno spazio delle donne assumendo che la storia non si fa soltanto con i nomi propri, con i fenomeni, con le eccezionalità, con le eroine, ma recuperando anche il senso della prospettiva e delle moltitudini. E poi c'è un secondo passaggio in cui mi occupo dello spazio delle donne come territorio di creatività, che cosa cosa significa o che cosa ha significato per le donne essere creative in un mondo in cui, per esempio, l'idea stessa del genio e della genialità era maschile. E poi c'è un terzo passaggio che riguarda lo spazio come posto abitato dagli stereotipi, dai luoghi comuni. Ho cercato di fare i conti anche con quelli che sono alcuni dei cliché della retorica sessista, per esempio l'argomento del merito, l'argomento delle quote cosiddette rosa, vale a dire le quote pari opportunità, come si dice in altri posti d'Europa. E poi il quarto spazio è lo spazio come stile, come esperienza, come poetica, letteraria, creativa, artistica, anche cinematografica. E il quinto spazio è lo spazio più aperto, più trasversale di tutti, è lo spazio delle donne come spazio e campo di messa alla prova della contemporaneità. Intorno a questi cinque spazi ho mantenuto alcune costanti. Una di queste è quella del fuoricampo attivo, che, come Federico Rafulli mi insegna, è una categoria del linguaggio cinematografico che ci aiuta proprio a tener presente, quando guardiamo un film, quando guardiamo una scena, una sequenza, non solo quello che accade al centro della scena, ma anche quello che accade appunto fuori campo. Tutte le volte in cui veniamo messe, interpellate affinché ci si chieda che cosa sta accadendo fuori campo, ecco lì lavora il fuoricampo attivo. E mi pare che sia una categoria molto produttiva anche per riconsiderare la storia delle donne, la storia del cinema delle donne, la storia della letteratura, dell'arte, della fotografia delle donne, ma in generale la storia anche del femminismo, che, come sappiamo tutti, in Italia, questo è un altro cliché da costruire, questo è più usato come sinonimo di una malattia rara o comunque di un problema, qualcosa da cui bisogna prendere le distanze, invece che essere usato, nominato con la consapevolezza storica che invece sarebbe tempo di avere. Cioè il femminismo è stata una delle più grandi rivoluzioni culturali, simboliche, materiali del Novecento. Non ha poi così tanta importanza essere o non essere femministe o femministi, esattamente come non ha tanta importanza, che so, essere futuriste o futuristi. Quello che conta però è restituire spazio e prospettiva a stagioni storiche, a biografie che sono appartenute alla storia in un certo modo e dunque vanno riconsiderate, non trattate con diminutivi sprezzanti o sessisti. Usare il fuoricampo attivo significa, per esempio, parlavo adesso di femminismo e quindi mi sono venute in mente anche quelle che sono state grandi conquiste del femminismo, significa restituire alla storia delle donne, alle loro opere o alle loro biografie così inabissate, il senso di una prospettiva storica. E infatti c'è una parte del libro in cui io ricostruisco, usando sempre, ci tengo a dirlo, uno stile piano, uno stile che cerca di essere capace, non so se ci sono riuscita, ma capace di raggiungere tutte e tutti. Però a un certo punto costruisco una timeline, cioè una serie di 14 tappe importanti dentro le quali poi noi dobbiamo ragionare anche di quelle che sono state le opere delle donne. Il 1946, sappiamo che è la prima volta che le donne hanno diritto di voto in Italia. Che cosa significa questo? Significa per esempio che autrici che erano nate 20 anni prima, 30 anni prima e che magari ci hanno tenuto a essere definite autori o scrittori o artisti, è chiaro che lo hanno fatto, lo preciso perché questo è un argomento che spesso viene sbandierato, no? Da chi vuole minimizzare il sessismo anche linguistico, dicendo sì, però che so, c'era Cecilia Mangieri che voleva essere definita un autore, c'era Natalia Ginzburg che voleva essere definita uno scrittore, ma queste sono donne che, per questo la timeline è importante, per questo il fuoricampo attivo è importante, sono donne che sono cresciute in un mondo che le ha allenate a disprezzare continuamente il genere a cui appartenevano. Sono donne che per portare nel mondo e far esistere la propria creatività, come prima cosa hanno dovuto fare di tutto per essere come degli uomini, per travestirsi da uomini. E queste sono tutte allora categorie che possono aiutarci a ragionare dello spazio delle donne in termini appunto di complessità. C'è un'altra parte del libro in cui si parla appunto della famosa vicenda dello stupro, del massacro, come si vuol dire, del Circeo, ecco, lì è chiaro che è interessante capire che rispetto a questo evento, di cui di solito anche a livello di narrazioni cinematografiche, narrazioni letterarie, televisive, eccetera, noi ci ricordiamo sempre quelli che sono i nomi e i protagonismi degli uomini che fecero lo stupro, ma non sappiamo quasi nulla a livello di narrazione condivisa, no? A livello di senso comune delle donne, di quelle ragazze che furono stuprate, torturate e poi uccise. Ecco, rispetto a questo evento, per esempio, ricordarsi che in Italia lo stupro diventa un crimine contro la persona e non contro la morale pubblica soltanto nel 1996, ricostruire queste coordinate ci aiuta davvero a prendere consapevolezza di quella che è stata la nostra storia, di quello che è stato lo spazio delle donne e di quello che potrebbe essere. E il discorso qui, se posso aggiungere insomma una precisazione che mi sta a cuore, non è un discorso contrappositivo, nel senso che lo spazio delle donne può anche essere inteso e ripensato attraverso queste categorie come spazio degli uomini, come spazio dove ripensare il maschile, perché un'altra cosa importante da fare certamente è non aver paura di pronunciare la parola patriarcato, perché la nostra cultura è stata impregnata di patriarcato a livello giuridico, sto pronunciando proprio dati materiali. Non bisogna aver paura di pronunciare la parola patriarcato anche per restituire alle identità maschili una complessità di sguardo, una ricchezza di esperienza che hanno diritto di avere. Non tutti gli uomini sono stati o sono patriarcali, no? Compreso Federico Raponi, naturalmente, che ringrazio e che è stato ed è uno dei tanti uomini che stanno aiutando lo spazio delle donne a circolare, a entrare un po' dappertutto. In chiusura, Daniela, ci dai dei riferimenti per seguirti online sul web? Io collaboro regolarmente con Doppio Zero e poi nelle mie pagine Facebook e Twitter via via rilancio i pezzi che posso scrivere o i testi, insomma i libri che posso aver scritto con cui interagisco, o altrimenti poi la scheda del libro che è appena uscito per Einaudi si trova anche nel sito della casa editrice. Il libro Lo spazio delle donne, in libreria dal 15 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Daniela Broggi. A presto! Grazie, grazie a voi di cuore. Eccoci, l'agenda della settimana con gli appuntamenti teatrali ma anche degli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti quanti, settimana con un bel po' di cosine da scoprire o da riscoprire, vediamo un po' che cosa ci offre. Andiamo subito all'interno del racconto teatrale perché torna a Roma al Teatro Argo Studio dal 24 febbraio lo spettacolo dedicato a Pirandello, Così è o mi pare, uno spettacolo in realtà virtuale con l'adattamento e la regia di Elio Germano, quindi qualcosa di piuttosto particolare che appunto ha a che vedere con queste pièce in realtà virtuale che proietta il pubblico attraverso il visore e le cuffie proprio dentro lo spettacolo, e tutto questo ragionato attorno al discorso pirandelliano sembra particolarmente interessante perché insomma il discorso attorno alla realtà, la rappresentazione che Pirandello ha sempre svolto nella sua opera attorno all'identità e alla maschera in questo periodo storico di realtà virtuale prende ancora più corpo. Dal 24 febbraio appunto al Teatro Argo Studio. Per ciò che riguarda invece al Teatro Le Maschere, di cui parliamo sempre un po' poco, Francesca Puglisi presenta un lavoro sul tema della precarietà. Lavoro, casa, amore, tutto insomma attorno al tema della precarietà che ahimè in questo periodo riguarda un po' tutte queste sfere. Francesca Puglisi lo scrive e lo porta in scena insieme ad Alessandra Faiella, Nessuno è fisso, è il gioco di parole per evidenziare appunto il posto fisso che manca in questo periodo. 24-27 febbraio al Teatro Le Maschere. Invece al Teatro dello Spazio Rossellini, per la prima volta a Roma, arriva l'Otello Circus del Teatro La Ribalta di Antonio Viganò, il regista e direttore artistico della compagnia, che presenta appunto dal 25 al 27 questo spettacolo speciale, come viene definito, perché vede in scena l'unica compagnia italiana costituita da uomini e donne in situazione di disagio psichico che lavorano in teatro professionalmente, insieme all'orchestra Allegro Moderato, che è appunto un'orchestra sinfonica che ha nel suo collettivo anche musicisti con disagio psichico. Io ho visto spettacoli di questa compagnia e devo dire che è un'esperienza molto molto interessante. Vinse questa compagnia il premio speciale Ubo nel 2018 per la qualità artistica delle proposte, e ora appunto porta in scena questo Otello Circus all'interno di una tribuna circense, dove gli attori della compagnia e i musicisti si preparano alla presentazione dell'opera. Appunto, siamo in un vecchio circo, tutto sembra abbandonato, Otello è costretto a rappresentare la sua personale tragedia. Questa è la sua condanna, la sua pena, ma anche la sua missione evidentemente nell'esistenza. Quindi dal 25 al 27 febbraio Spazio Rossellini per Teatro La Ribalta. Per ciò che riguarda invece il teatro, andiamo al Quarticciolo, anche se uno spettacolo per ragazzi e con una sola data, 27 febbraio, domenica, ore 17, Le piccole narrazioni per attrici e pupazzi di Valentina Vuole. È un progetto del Quarticciolo con Francesca Grisenti, Consuelo Chiretti, i pupazzi realizzati da Ilaria Comisso, che raccontano la storia di Valentina, bambina che ha tutto ma è sempre arrabbiata e urla sempre, vuole sempre di più. Quindi ecco, uno spettacolo tutto sommato etico per ciò che riguarda questo Valentina Vuole, questa narrazione sul tema della libertà e dell'autonomia dei bambini, sui capricci, sulle regole, ma anche sui desideri e sui sogni. Per ciò che riguarda invece il Teatro Basilica, questa settimana ritorna il Teatro di San Giovanni, perché è l'occasione per vedere lo spettacolo tratto dal bestseller Corri dall'inferno a Central Park di Roberto Di Sante, la regia e l'adattamento di Ferdinando Ceriani. Sul palco l'attore e maratoneta Sebastiano Gavasso, che è accompagnato dalle musiche di Giovanna Famulari, ed è appunto uno spettacolo sul correre, non a caso viene definito maratoneta l'attore stesso, perché appunto egli stesso è un appassionato runner. Si parla di corsa e di vita. Corri una storia che inizia con un uomo che precipita dal quarto piano, ed è una storia che finisce con lo stesso uomo alla maratona di New York. Quindi una storia di grande riscatto probabilmente, ma anche di dolore, di amore, di scelte, di difficoltà e di sogni, di desideri. Dal 22 al 27 febbraio per il Teatro Basilica Corri con Sebastiano Gavasso, che al Teatro Fortezza Est dal 24 al 26 febbraio il numero 22 di Alessia Giovanna Matrisciano con la regia di Daniele Casolino, in scena Caterpillar e Chiara Cappelli, e in un linguaggio sospeso tra il teatro e la poesia, questa è la vera storia di pazzia e di santità di Caterina da Siena, una donna capace di sacrificare il proprio corpo rivendicando quello che è il suo diritto di pensare ed essere libera. Quindi una ragazza ribelle, Caterina, che si ribella appunto alle convenienze, alla mediocrità, alla sottomissione della famiglia. Questa è la storia, la vicenda di coraggio e di forza, di carattere, che viene portata in scena sul Parco della Fortezza Est, 24-26 febbraio, il numero 22. Poi Off of Theater, perché mercoledì 23, da domani fino al 27 febbraio, Diario di un inadeguato, ovvero Mumble Mumble, atto secondo. Emanuele Salce, con la collaborazione di Andrea Pergolari, insieme ci sarà Paolo Giommarelli, presentano questo spettacolo con la regia di Giuseppe Marini. È uno spettacolo che si rinnova 12 anni dopo il primo spettacolo, che probabilmente io vidi, chissà se forse al Teatro Belli, tanto tempo fa. Quella confessione sul palco tra verità e finzione, un vissuto che reclama di essere raccontato, condiviso e quindi a tutti gli effetti esorcizzato. C'è il diario, in qualche modo, l'intimità del diario, lo straniamento dell'ironia e questa drammaturgia fatta di personaggi, di fatti, di intenzioni, che va dal privato al pubblico attraverso un gioco chiaramente molto teatrale di rimandi interni. Questo è Mumble Mumble, atto secondo, mercoledì 23, domenica 27 febbraio al teatro Off of Theater. Al Teatro India, cioè Destinazione non umana, scritto e diretto da Valentina Esposito, 22-27 di febbraio. 7 cavalli da corsa geneticamente difettosi condividono la vecchiaia in attesa della macellazione. Nel gioco del teatro la vicenda delle bestie umane diventa pretesto per una riflessione sul tema della predestinazione, della malattia, della morte, della precarietà. Quindi questo è quello che andremo a vedere al Teatro India per Destinazione non umana. Fortapash è la compagnia teatrale italiana, l'unica costituita da attori ex detenuti, oggi professionisti di cinema e palcoscenico. Questi andremo a vedere appunto al Teatro India dal 22 al 27 di febbraio. Teatro Torbella Monaca, due spettacoli da ricordare. Sabato 26, domenica 27, c'è questo testo, mi pare particolarmente tradotto in decine di lingue, un piccolo classico della produzione iberica contemporanea. Rodolf Sirera, con la regia di Tommaso Massimo Rotella, si presenta questo testo dal titolo Il veleno del teatro. Siamo nel Settecento, siamo in Francia, poco prima della Rivoluzione Francese. Un duello di parole con due personaggi indaga il senso stesso del fare teatro, le storie, i personaggi che vivono sulla scena e mostrano gli aspetti più oscuri e inquietanti della natura umana. In scena ci saranno Salvatore Della Villa e Alfredo Traversa, quindi noi andremo a vedere sabato 26 e 27 al Teatro Torbella Monaca. Stesso teatro dove dal 24 al 26 invece vedremo I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica con 7 contro Tebe da Eschilo. Ovviamente la compagnia in scena è quella dei Sacchi di Sabbia, che tanto ci ha fatto ridere e riflettere molto in passato. L'argomento lo conosciamo: i figli gemelli di Edipo e Teucle e Polinice, che hanno su di loro il destino del genos, il destino del padre e il destino della stirpe. Ed essendo gemelli si accordano per regnare a turno. E Teucle fu il primo, e Polinice non toccò però mai. E questo che appunto poi darà vita anche ad altre vicende note, così che come per esempio l'Antigone. Ma non è questa la storia. La storia è precedente. Siamo appunto ai 7 contro Tebe, siamo all'interno del teatro della Grecia classica e sulla scena I Sacchi di Sabbia, diretti da Giovanni Guerrieri, ma insomma Angeliano, Giulia Gallo, Gabriele Carli. Poi direi che è l'occasione per andare al Teatro Quirino, perché debutta da questa sera La morte di un commesso viaggiatore con Michele Placido e Alvia Reale in scena fino al 6 marzo. Spettacolo insomma interessante, anche perché diretto da Leo Muscato, insomma, regista notevole, importante, e è la storia di un piccolo uomo e del suo sogno più grande. Di lui mischia verità e allucinazione, si svolge contemporaneamente sulla scena e nella testa del protagonista, e noi spettatori siamo chiamati ad entrarci dentro. Una tragedia moderna che rivela il lato crudele del sogno americano. C'è Willy che vuole essere ben voluto, che trascura il fatto di essere invece amato. Contrariamente a quel che pensa, la sua famiglia lo adora, sua moglie ha votato a lui la propria esistenza, il suo figlio minore Happy lo imita fino al punto di avere i suoi stessi sogni sbagliati, appunto. Cosa accadrà nella vita di Willy Loman, uno dei personaggi teatrali più tragici del XX secolo? Lo andremo a scoprire. Quale sarà il suo futuro e quale sarà il suo limite, il suo fallimento? Lo andremo a scoprire appunto al Teatro Quirino da questa sera 22 fino al 6 di marzo. Teatro Carrozzeria Not 25-26 febbraio per Giovanni Onorato, che presenta due date: Sacmai Iperuranio, un aspirante comico, in lacrime, un pessimo inizio, il sentimento dell'estasi e Maria se n'è andata. Non restano che le battute sì, come antidoto all'autocommiserazione, e poi il pianto, la tragedia e lo schiaffo come antidoto alle battute. Questa scrittura originale, insomma, in quella stand-up comedy diventa dispositivo narrativo al servizio di una performance contemporanea, c'è un comico chiuso nella sua stanza e cerca di dimenticare l'amore perduto. Giovanni Onorato, Sacmai Iperuranio, 25-26 febbraio al Teatro Carrozzeria Not. Ancora due gli spettacoli da ricordare, due gli appuntamenti da ricordare, perché il primo di cui parleremo sarà la chiusura agli ultimi giorni del Festival di Danza dell'Auditorium Parco della Musica Equilibrio, e sarà una chiusura molto importante perché la doppia coreografia Kukai Danza da un lato con Oscara e Marcos Morau presentano questa sera due universi coreografici diversi, due prospettive diverse che vanno dalle radici più popolari alle espressioni più d'avanguardia, propongono un nuovo universo scenico nel panorama internazionale. Oscara è un'opera installativa che ripercorre alcuni aspetti della cultura basca, dei miti dell'origine fino ai giorni nostri. Quindi lo spettacolo appunto è Oscara, Cucaglianza, ma la coreografia è di Marcos Morau, ovvero sia uno degli animatori della compagnia importantissima, la Veronal. Questo appunto è il 22 di febbraio, cioè questa sera. Seguirà giovedì Maggie Maren con Alessandro Sciarroni per Duo d'Eden, questo spettacolo originale molto articolato dove ci sono appunto un uomo e una donna in tutte color carne che mettono in evidenza la loro nudità. È una sorta di Adamo ed Eva, insomma, vinti da una grande sensualità, da un grande eros, in un mondo che però non è così tranquillo, insomma, appunto, come l'Eden vorrebbe farci credere. Sabato 26, l'occasione invece per vedere all'opera Francesca Pennini e Pamela PMCI, probabilmente, sarà una pronuncia all'inglese, ma non saprei dirlo. Carmen Song Cycle è questo lavoro compositivo che è del 2012 ed è un'opera multimediale che combina musica e proiezioni immersive realizzate dall'artista Christina McPhee. Equilibrio chiede appunto una versione, questa è una versione che affida anche alla danza, della composizione musicale che affida alla danza di Francesca Pennini, che elabora una partitura di movimento basata su questa musica e si ispira ai dati scientifici del ciclo del carbonio e mette in gioco cellule melodiche che rimbalzano tra gli strumenti e la voce, elaborate elettronicamente dal vivo. Questo sabato 26 al Teatro Studio dell'Auditorium. Ultimo spettacolo sarà invece la sera stessa, per sabato 26, che è l'ultimo giorno, Richard Segal, Triple All for One. Triple sono tre lavori di balletto, All for One, Metric Dozen, My Generation, che andremo appunto a vedere nella Sala Petrassi, il balletto qui per raccontare la diversità fisica, sessuale, culturale. Questo progetto del coreografo americano è tra i più innovativi della scena attuale, quindi da andare a vedere sicuramente. Ultimissimo lavoro di cui parliamo è dal 21 al 27 Teatro Bascello, Lo Zoo di Vetro di Tennessee Williams, con la regia di Leonardo Lidi, uno dei maggiori giovani registi teatrali italiani, un regista che ha creato spettacoli particolarmente importanti, interessanti in questo ultimo periodo storico. Lo Zoo di Vetro viene scritto a Tennessee Williams ispirandosi alla sua storia personale, racconta le vicende della famiglia Winfield, composta dalla madre Amanda e i suoi due figli Tom e Laura, che è una ragazza timida e claudicante. Abbandonata dal marito, Amanda deve affrontare le difficoltà, i timori e le ansie che derivano dal desiderio di assicurare un futuro ai propri figli. Questo Leonardo Lidi redige Tennessee Williams dal 22 al 27 febbraio e con questo è tutto. Ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.